Ed eccoci come ogni lunedì sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per la trasmissione Entropia Massima. Trasmissione di questa sera dedicata alla tecnologia. Un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, in particolare chi ci ascolta dal carcere. Questa è Radio Onda Rossa, la radio che non campa d'aria e anche la radio di chi se la sente. Sottoscrivete l'abbonamento annuale andando sul sito. Cliccate su radio abbonamento, è molto facile poter fare la procedura, vi invitiamo a farla assolutamente. Sapete che questa radio non ha mai preso finanziamenti pubblici né privati, né tantomeno pubblicità. Le persone lavorano tutte come volontarie. C'è sempre bisogno di risorse per mandare avanti la baracca. E chiediamo a voi che ci ascoltate dal 77 a oggi, e anche a chi ci ascolta magari da un po' meno che dal 77, a tutti e tutte. Ed eccoci in diretta ad Entropia Massima. E dicevamo che questo lunedì è la volta di tecnologia, ma in realtà sarà una puntata un pochino speciale, una puntata che parlerà di argomenti che sono quelli che durante i vari cicli, quattro cicli della nostra trasmissione si sono alternati da tanti anni a questa parte. E parleremo infatti anche di sostenibilità ambientale, parleremo di nucleare, parleremo ovviamente di tecnologia, e lo faremo con un filo conduttore comune che vogliamo esplorare questa sera insieme a voi e insieme anche alle parole di Yuval Harari che ci accompagnano spesso e volentieri in queste puntate. Parleremo questa sera di nazionalismo, ecco, un tema molto molto importante, lo è sempre stato, negli ultimi tempi lo diventa sempre di più, perché quelle che pensavamo essere ormai idee sepolte dalla storia, come sapete, stanno riemergendo in maniera imprevista e anche direi dirompente. E quindi facciamo una puntata sul nazionalismo e ne parliamo diciamo da un punto di vista degli argomenti di Entropia Massima, e quindi da un punto di vista di tutti quei cambiamenti enormi che stanno interessando il pianeta, che stanno interessando gli esseri umani, la tecnologia, la scienza. Ecco, cosa c'entra il nazionalismo con tutto questo? E vedremo che in realtà c'entra moltissimo. Oggi noi sembrerebbe oggi veramente anacronistico, no? Parlare di isolazionismo nazionalistico e spacciare questo come una soluzione ai problemi che ci sono. Perché in realtà dovremmo condividere a livello globale delle sfide molto molto molto molto importanti e tutt'altro che semplici, e per farlo non possiamo certo chiuderci all'interno dei recinti nazionali e statali. Sappiamo, per chi ci segue, che ci sono molti motivi di pensare che si va verso il disastro, per esempio ambientale, e quindi affrontare temi di questo genere da un punto di vista di un solo Stato appare veramente, veramente miope. Diciamo, cominciamo col dire innanzitutto che il nazionalismo non è un come dire una componente naturale ed eterna, quindi è sempre esistita dell'umanità, della storia dell'umanità, ma direi proprio anche della psiche dell'umanità. E non è neanche parte della biologia dell'umanità, cioè non è neanche scritto da nessuna parte in nessun DNA. Gli esseri umani, Homo sapiens, sono animali sociali, questo è noto, e quindi amano vivere in gruppi ai quali certamente offrono lealtà. E questo è vero, questo è scritto davvero nei nostri geni, perché in centinaia di migliaia di anni, ma anche direi in milioni di anni, considerando quindi non solo Homo sapiens ma anche gli ominidi, no? Che hanno preceduto la nostra specie, in questi tipi di animali diciamo la lealtà al gruppo è parte degli schemi che si utilizzano per la sopravvivenza. Tendenzialmente per milioni di anni ominidi hanno condiviso piccole comunità intime di poche decine di persone. Si parla di tribù, si parla quindi di compagnie, diciamo, familistiche o comunque di conoscenze che si fanno durante l'infanzia. E invece il passaggio da questi piccoli gruppi, e quindi dalla lealtà a questi piccoli gruppi, alla lealtà a milioni di persone, è sicuramente un passaggio molto molto arduo, anche perché quando si parla di milioni di persone si parla fondamentalmente di persone sconosciute. E questa lealtà alle masse è qualcosa che ha non milioni di anni, ma ha migliaia di anni. Da alcune migliaia di anni Homo sapiens si è organizzato in questo modo qui, e quindi molti sforzi sono stati profusi per costruire schemi sociali che permettessero di convivere in gruppi più grandi, di potersi fidare di gruppi più grandi, di poter dare la propria lealtà anche a gruppi di cui non si conoscono tutti gli individui. Per esempio, cerchiamo di motivare queste affermazioni. Le sfide che ci potevano essere ai tempi in cui in Egitto le singole tribù si trovavano a dover fronteggiare i cicli di inondazione e di secca del fiume Nilo, un esempio proprio classico, no? Il fiume Nilo rappresentava per quelle tribù una fonte di vita, era il mezzo attraverso il quale si poteva dare acqua ai campi, si potevano portare anche i commerci, perché si potevano anche fare vie, trasporti di merci e di persone per via navale. Quindi se pioveva troppo poco, le persone non avevano di che sfamarsi, perché non potevano produrre abbastanza. Se pioveva troppo, si rischiava di distruggere dei villaggi. E quindi, siccome le tribù controllavano territori piccoli, no? Sezioni ridotte del fiume potevano essere sotto il controllo di alcune tribù, questo poteva riguardare poche centinaia di lavoratori, di persone, di uomini e di donne che potevano lavorare per gestire i cicli del fiume Nilo, per esempio costruendo dighe, costruendo canali, ecco, cose di questo genere. Questo è il motivo per cui le tribù gradualmente si sono coalizzate e hanno formato delle, diciamo, nazioni singole, per regolare il flusso di questo fiume, per poter anche gestire le riserve di grano, quindi per poter costruire dei granai che consentivano poi nel tempo di gestire i momenti di carestia, per poter muoversi, quindi per potersi per poter trasportare persone e merci, e per poter comunicare, anche la comunicazione. Quindi non si conoscono le persone. Conosco queste persone? No, io non conosco queste persone. Penso anche che non avrò mai a che fare con queste persone nella mia nazione, però decido di dare una lealtà a questa massa nebulosa, no? chiamata nazione, che sicuramente non è una eredità biologica, ancestrale degli antichi raccoglitori e cacciatori, ma piuttosto è un costrutto sociale davvero rilevante, davvero mirabile, di una storia più recente. E quindi si possono costruire con persone non note dei legami comuni. E questa nazione poi può portare alla costruzione di apparati per esempio la formazione, quindi la formazione scolastica, e si tengono insieme attraverso narrazioni che fanno parte della propaganda, si tengono insieme sotto una bandiera, tendenzialmente, oppure un inno nazionale, e si tengono insieme però anche per cose molto più concrete, cioè sistemi di gestione della sicurezza, sistemi di gestione della salute, sistemi di gestione del welfare. Quindi ci sono questi enormi sistemi che non possono funzionare senza che ci sia una lealtà di massa verso questi sistemi, no? Senza che le masse di persone riconoscano a queste entità un ruolo speciale e meritevole quindi di lealtà. Bisogna pensare dunque che la propria nazione sia importante, che bisogna pensare che si abbiano degli obblighi speciali verso la nazione, verso persone non note, e bisogna prendersi cura anche delle persone che vivono in questa nazione, fare anche persino dei sacrifici, no? per queste persone, mettere da parte delle risorse che possono essere utilizzate quando qualcuno sta in difficoltà. Questa è un po' la teoria della nazione. Ci sono quindi nazioni pacifiche, prosperose e anche liberali, come per esempio la Svezia, la Germania, la Svizzera, che vivono con un forte senso di nazionalismo. Quindi il nazionalismo non è necessariamente antitetico al liberalismo. Le due cose spesso vanno insieme, come in questi casi che abbiamo citato. E ci sono anche stati in cui invece mancano dei legami nazionali forti, potremmo citare casi molto noti come l'Afghanistan, che è destabilizzata da una guerra ormai quindicinale, la Somalia, il Congo, e quindi questi sono esempi in cui invece questi legami nazionali sono quasi assenti o molto deboli. E quindi, detta questa cosa di teoria, sappiamo che i problemi cominciano a nascere quando queste forme di patriottismo funzionale alla vita di una comunità si vanno a mutare forma e diventano sciovinismo, ultranazionalismo. E si può arrivare ad aberrazioni, come è ben noto sicuramente da parte di chi ci ascolta, di supremazia di una nazione su altre nazioni. E si può pensare di dare la propria lealtà solamente a una nazione, e di non avere nessun altro obbligo, nessun altro dovere nei confronti di nessun altro che non appartenga a quella nazione, no? E questo è un po' il concetto che stanno diffondendo i cosiddetti sovranisti, diciamo, della politica contemporanea, cioè prima gli italiani piuttosto che prima gli inglesi, piuttosto che prima i francesi e quant'altro, prima qualcuno, poi qualcun altro. Questo genere, questo approccio chiaramente porta a conflitti, porta a guerre. Questo tipo di nazionalismo quindi giustifica anche, per esempio, espansione militare. Questa espansione militare a volte viene giustificata come la protezione interna contro delle macchinazioni dei propri vicini, reali o irreali che siano. Comunque si ha l'impressione di non essere sicuri e quindi si pensa a praticare azioni di espansione militare, espansione fisica, espansione anche di altro genere, non fisica ma anche virtuale, che ha a che vedere magari con l'economia, con la capacità di innovare, come vedremo. E quindi quando si ha l'impressione che la sicurezza e la prosperità di una nazione possa essere messa in discussione, si arriva quindi a pensare di poter pagare diciamo con il prezzo del sangue la difesa di queste prerogative. E si può arrivare quindi a conflitti orrendi. Queste sono cose molto scontate, molto note, ma ce li diciamo perché a quanto pare, diciamo, che se, no, non è mai troppo parlarne, a quanto pare. E va bene. Diciamo, i nazionalismi in qualche modo, c'è una data importante in cui i nazionalismi vengono messi in fortissima discussione. Questa data è il 1945, la data diciamo in cui le armi nucleari vengono inserite all'interno dei conflitti tra stati, e quindi questa introduzione manda completamente in tilt il sistema nazionalistico. Le persone cominciano ad avere una paura irreversibile della guerra. La guerra nucleare presenta scenari di annichilimento totale, e quindi questo annichilimento totale viene visto come un punto di non ritorno. Non si può più tornare indietro dopo aver lanciato ordigni nucleari. Quindi questo in qualche modo è simbolico ma anche molto pratico, e da lì ed è da questa data che si comincia a mettere in discussione in maniera drastica e apparentemente definitiva, ma solo apparentemente, il nazionalismo. Un'altra data molto importante che citiamo, storica, è quella del 1964, e riguarda la campagna presidenziale di Lyndon Johnson negli Stati Uniti, quando fu messo in distribuzione una pubblicità di una margherita, una margherita, un fiore, e in questa pubblicità una giovane donna staccava i petoli di questa margherita contando fino a raggiungere il 10, quando poi invece una voce metallica maschile entrava nella scena e cominciava a contare invece indietro da 10 a 0, come in un conto alla rovescia per lanci missilistici, e finiva poi, diciamo, con un flash lampeggiante con un'esplosione nucleare. Quindi questo, diciamo, questo aveva ovviamente una presa molto molto forte su quello che era già il sentire delle persone in quel momento, già era molto molto scosso dal prospettare il disastro nucleare. E quindi c'è una frase di Lyndon Johnson in un suo discorso: dobbiamo ci amiamo oppure moriremo, sostanzialmente, no? Utilizza proprio questo termine amore, forse un termine che avremmo associato più a make love not war, fate l'amore non fate la guerra, però viene pronunciato anche da questo candidato presidente. E quindi sostanzialmente c'è il periodo della guerra fredda, il nazionalismo assolutamente fa un passo indietro molto forte e si comincia a pensare per la prima volta nella storia di avere delle politiche internazionali che hanno un approccio globale. Questa è una novità assoluta per la storia, no? E non solo, ma quando poi la guerra fredda finisce, o se non finisce viene messa in stand-by, diciamo così, visto che oggi a tutti gli effetti sembra ricominciata, ad ogni modo in quelli che sono diciamo inizio degli anni 90, in cui si fa risalire la fine della cosiddetta guerra fredda, addirittura la globalizzazione sembra che debba poter avere una espansione irresistibile. Quindi si parla di globalizzazione in termini entusiastici, e quindi il nazionalismo proprio non c'entra, cioè non era neanche più preso in considerazione, era considerato come un modo di pensare e di agire assolutamente primitivo, no? Storicamente superato, proprio solo di persone male informate, o se non proprio addirittura ignoranti, no? Ecco, in anni recenti sappiamo invece che il nazionalismo sta tornando in auge anche presso cittadini ad esempio della Unione Europea o degli Stati Uniti d'America, ma anche di altre grosse potenze come la Russia, l'India e la Cina, e potrebbe anche spiegarsi dalla alienazione che è venuta fuori dalle forze del capitalismo globale, che ha portato sicuramente un'ondata di crisi a tutti i livelli, crisi profondissime, economiche, sociali, ma anche di senso stesso della vita, se vogliamo. E quindi rispetto alle paure odierne causate proprio da questa ondata di globalizzazione che sta segnando il passo negli ultimi tempi, queste paure di perdere i sistemi nazionali di salute, di educazione scolastica, di formazione scolastica e in generale di welfare, hanno riportato in auge in qualche modo il tema della nazione, che sembra rassicurare alcune persone. Pensate appunto a un presidente come Johnson, che nel 64 faceva questo spot della margherita. Pensate invece ad altri uomini di Stato, uomini potenti: Trump, Theresa May, Putin e a tutti i loro colleghi, che cosa possono pensare oggi, no? di quel tipo di approccio. Fa un po' ridere. Ecco, quindi questa sera vogliamo vedere, no? Visto che la situazione è questa, proviamo ad interrogarci se il nazionalismo può avere senso per affrontare la sfida nucleare, per affrontare i problemi dovuti al cambiamento climatico per affrontare i problemi che l'introduzione del dirompente delle nuove tecnologie stanno portando sul tavolo, no? Noi in questa puntata facciamo soprattutto l'introduzione dirompente di nuove tecnologie che cambiano completamente il gioco, no? Sono game changers, come si dice in inglese, no? Però oggi parliamo anche di altri aspetti, perché uno potrebbe pensare, anzi pongo questa domanda, la pongo proprio a chi ci ascolta, qual è tra queste tre gravi minacce, quindi la minaccia nucleare, la minaccia del cambiamento climatico e la minaccia della tecnologia intesa come avvento dell'intelligenza artificiale, quale di queste tre minacce è più grave, quale di queste tre minacce è meno adatta ad essere affrontata con il nazionalismo, quale fra queste tre minacce ci fa più paura? Bene, così a freddo ci sembrerebbe di poter rispondere che forse la prima è quella più grave, perché la crisi diciamo nucleare è definitiva, è un annichilamento definitivo che non ha ulteriori effetti. Vediamo se fino alla fine della puntata preserveremo questa idea iniziale o se la cambieremo. Quindi appunto la paura di un conflitto nucleare è molto forte, è una paura che noi abbiamo già dal 1945, è una paura diffusa in tante popolazioni, direi in tutte le popolazioni del mondo. E ha cambiato, come abbiamo appena spiegato, anche la geopolitica, cioè il modo in cui ci si relaziona diplomaticamente fra americani, all'epoca erano sovietici, europei, cinesi e quant'altro. E c'è da dire che in quel periodo, nel periodo in cui sono stati abbandonati in maniera netta i nazionalismi, il mondo, quantomeno il mondo occidentale, ha conosciuto un periodo di relativo ordine da un punto di vista di guerre, quindi un periodo pacifico piuttosto lungo. Sappiamo che nel periodo ci sono stati in realtà molti conflitti in zone in zone diverse da quelle dei luoghi cosiddetti occidentali, no? Quindi dei luoghi dove il potere è maggiormente concentrato, però limitandoci semplicemente, diciamo così, con uno sguardo dalle nostre parti, c'è da dire che per lunghi decenni c'è stato un periodo di apparente pace, apparente ordine. Inoltre, sempre in questo periodo ci sono stati pochi aggiustamenti dei confini per aggressioni, cioè i confini sono cambiati, ma non ci sono stati molti cambiamenti dovuti ad aggressioni, cioè non ci sono stati dei momenti in cui qualcuno ha invaso qualcun altro. Ci sono stati, ma non sono stati tanti, ecco, mettiamola così. Invece recentemente, nel 2016, cioè, vi leggo questa statistica, nonostante le guerre in Siria, Ucraina e alcune altre, sono morte meno persone per conseguenze di violenza umana rispetto alle persone che sono morte per obesità, per incidenti stradali o per suicidio. Questa è una statistica, no? Appunto, che risale al 2016, anno con cui comunque erano in corso guerre di una certa rilevanza. Lo abbiamo dato per scontato per anni, però scontato non è, perché invece la storia ci parla di periodi molto più brevi di pace e molto più frequenti di conflitti. Il dibattito odierno invece sembra di nuovo riportato ci riporta un po' indietro, ci riporta al periodo appunto in cui le armi nucleari minacciano di creare un giorno del giudizio in cui tutto quanto verrà distrutto. E nel dibattito, per esempio, nel dibattito che c'è stato per la Brexit, che riguardava la Gran Bretagna, cioè una potenza nucleare, in questo dibattito si è parlato di economia, si è parlato di immigrazione, ma non si è invece parlato di pace globale, quindi non si è parlato di rischio nucleare, si è proprio saltato a pie pari questo argomento, no? Quindi diciamo, al momento è molto difficile costruire un orizzonte internazionalista, è molto difficile parlare di pace globale. Non c'è dubbio che ci siano delle condizioni mutate che rendono difficile tutto questo, e non c'è dubbio che non sia stato opportuno, e sicuramente non lo è più, affidarsi solamente, per esempio, agli Stati Uniti per poterci garantire un equilibrio di poteri. Quindi questo non è sano, specialmente in un periodo in cui ci sono altre potenze, come ad esempio Cina e India, che devono necessariamente entrare nel calcolo dei punti di bilanciamento dei vari poteri. Ma certamente possiamo dire che tornare al nazionalismo in questo momento è veramente una scommessa totalmente irresponsabile. Le armi nucleari hanno cambiato il modo in cui si fa guerra, in cui si fa politica. L'arricchimento dell'uranio e del plutonio dovrebbe avere un'attenzione molto maggiore, e invece i nazionalisti oggi ci dicono prima gli italiani o prima quello che metteteci, una nazione qualunque. E come si può pensare di affrontare una crisi del genere senza una cooperazione internazionale? Come si può pensare che un solo Stato da solo possa proteggere quantomeno se stesso, se non il mondo, da un disastro nucleare? Ecco, questa è una domanda che noi rivolgiamo, e subito dopo ci dedichiamo un po' di musica, perché abbiamo chiacchierato troppo. Vi faccio ascoltare un brano di Mia che si chiama, non a caso, Borders. Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em. Say when I'm with them, we solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them, we solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. What's up? the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close, close to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the app. And we talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, they don't play us on the app. And we talking in our sleep, just to listen on the system. We sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls, what's up with that? Freedom, what's up with that? Your power, what's up with that? Guns close, close to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close, close to the system. E allora ritorniamo in diretta, siamo ad Entropia Massimo su 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando di nazionalismo e di come questa nuova ondata di politica può affrontare le grandi crisi. Abbiamo parlato della crisi nucleare, adesso in questa seconda parte parliamo di un'altra grossa crisi, la crisi ecologica. Anche questa è molto nota per chi ci ascolta, ma non solo in questa trasmissione. Certamente nel 1964 non era sui radar sta roba qui del cambiamento climatico, no? Del collasso ecologico. E cosa, diciamo due parole, gli esseri umani stanno destabilizzando la biosfera in molti modi, stanno portando, diciamo stanno prendendo delle risorse, stanno pompando indietro, stanno rimandando indietro delle quantità di rifiuti e di veleni, cambiando quindi la composizione del suolo, dell'acqua e dell'atmosfera. Questo molto, molto in breve, così si può descrivere il collasso ecologico che stiamo vivendo. Non ne siamo probabilmente abbastanza consapevoli, non capiamo in quale miriade di modi stiamo distruggendo il delicato bilanciamento ecologico che si è costruito su un orizzonte temporale di milioni di anni. Consideriamo per esempio l'uso del fosforo come fertilizzante. In piccole quantità il fosforo è un nutriente, in grandi quantità diventa tossico. L'agricoltura industriale e moderna è basata sull'uso di fertilizzanti artificiali basati sul fosforo, e questo sta di fatto avvelenando fiumi, laghi e oceani, e sta avendo anche un impatto molto forte sulle forme di vita che vivono in questi ecosistemi, ad esempio sulla vita marina. Quindi un agricoltore che produce mais per esempio in Iowa, negli Stati Uniti, può così facendo uccidere forme viventi marine del Golfo del Messico. Quindi ci sono delle relazioni tra i comportamenti che superano superano distanze molto, molto rilevanti, e quindi di cui non si riesce neanche ad avere troppa consapevolezza. Gli habitat vengono degradati, gli animali e le piante subiscono estinzioni. Per esempio ecosistemi come la Grande Barriera Corallina australiana o la foresta amazzonica pluviale sono sottoposte a processi di distruzione inesorabili e crescenti. Se l'essere umano è sempre stato un serial killer ecologico, adesso sta diventando un omicida di massa, no? Un omicida ecologico di massa. E quindi si può parlare anche in questo caso, come nel caso del disastro nucleare, di annichiliamento di tutte le forme di vita. avviene in una maniera più lenta, quella avviene in una maniera istantanea e quindi per questo abbiamo paura, ma l'impatto probabilmente è persino superiore. È vero che ci sono state nel corso dei millenni cambiamenti climatici, ci sono state ere glaciali, ci sono stati periodi più caldi, ma nel periodo in cui con la rivoluzione agricola, con la nascita delle città, con la nascita delle società complesse, quindi diciamo negli ultimi x mila anni, in questo periodo che viene definito Olocene, il clima della Terra è più o meno rimasto abbastanza stabile, ci sono state poche deviazioni. E invece stiamo sperimentando su noi stessi come se noi fossimo appunto degli animali da laboratorio, dei topi da laboratorio, stiamo sperimentando dei cambiamenti per i quali neanche riusciamo a conoscere i possibili rischi, gli esiti di questo tipo di comportamento che cambia il clima, no? Poi un'altra differenza con il disastro nucleare: il disastro nucleare è un disastro futuribile, potenziale, che ha a che vedere con la diplomazia, che ha a che vedere con il gioco di poteri mondiali. Invece il cambiamento climatico è proprio una realtà, cioè non è possibile fermarlo con mezzi diciamo parimenti efficaci come quelli che tengono finora a bada il disastro nucleare. C'è un consenso scientifico piuttosto diffuso e autorevole che dice che le attività umane e in particolare le emissioni dei gas serra stanno cambiando il clima, lo stanno cambiando ad un ritmo impressionante. Non sappiamo quanto è la quantità di CO2 che dobbiamo immettere nell'atmosfera per arrivare ad un cataclisma irreversibile, ma sempre stime scientifiche ci dicono che se non riduciamo drasticamente nei prossimi 20 anni le emissioni di gas serra, ci sarà un innalzamento delle temperature superiore ai 2 gradi Celsius, e quindi ci saranno fenomeni come l'espansione dei deserti, scomparsa dei ghiacci, innalzamento degli oceani, eventi come uragani o tifoni, eventi distruttivi come uragani e tifoni. E questo ovviamente avrà un impatto anche sulla produzione agricola. Avrà un impatto sulle città che potrebbero essere inondate, specialmente quelle vicine alla costa, e creerà centinaia di milioni di rifugiati che cercheranno nuovi posti dove vivere perché il proprio non è più adeguato alla vita. E anche, diciamo, se non c'è quindi persino se noi decidessimo oggi di fermare drasticamente le emissioni di gas serra, non è detto che questo sia abbastanza per tornare indietro, quindi per rendere reversibile il processo che è in atto. E qui c'è un altro incubo, appunto. Se ci sono meno ghiacci, la luce solare viene riflessa di meno. Se viene riflessa di meno, significa che il nostro pianeta ne assorbe di più, e quindi per un effetto di controreazione ci sarà ancora più ghiaccio che si fonde e sempre più rapidamente. E questo feedback ha una soglia oltre la quale se si va oltre questa soglia diventa veramente inevitabile lo scioglimento totale dei ghiacci, quindi diciamo potrebbe esserci anche un punto di non ritorno. dice: beh, allora rispetto a questo panorama cosa è successo? Qualcosa è cambiato nel 2018. Il tasso di emissione di gas serra nell'atmosfera è cresciuto, non è che dice è rimasto lo stesso, no, è proprio cresciuto. Quindi il tempo è molto poco. Ecco, rispetto a questo disastro, che cosa può fare il nazionalismo? Può una nazione magari molto potente, potentissima, una delle più nazioni, delle più potenti, che ne so, gli Stati Uniti, la Cina, quello che volete, no? Può una nazione da sola fermare il riscaldamento globale? Certo, gli stati potrebbero adottare una varietà di policy green, no? Di policy che vanno verso la sostenibilità ambientale, verso condotte ecologicamente sostenibili. Questo potrebbe addirittura rappresentare un buon viatico per l'economia. I governi potrebbero inserire delle tasse sulle emissioni. Si potrebbero per esempio aggiungere dei costi sulle esternalità negative dei processi produttivi. Si potrebbero adottare delle regolamentazioni ambientali rigide. Si potrebbero introdurre dei sussidi per tagliare dei sussidi alle industrie che inquinano. Si potrebbero incentivare le energie rinnovabili. Si potrebbero fare tutte queste cose in un solo stato o in pochi stati. Si potrebbe investire in ricerca, in sviluppo di tecnologie eco-friendly. Ma tutto questo basterebbe? Basterebbe se questa cosa venisse fatta in un solo stato? Per esempio si parla spesso anche degli avanzamenti tecnologici importanti, no? Quindi che potrebbero in effetti introdurre soluzioni potenti, molto potenti, che potrebbero davvero dare una svolta alla situazione. Facciamo un caso così ne approfittiamo anche per parlarne. Il cosiddetto caso della carne, della clean meat, cioè della carne che non proviene dalla uccisione di animali. Al momento la produzione di carne interessa miliardi di esseri senzienti che vengono allevati per poter ottenere carne e quindi ad uso alimentare, per potersi cibare delle loro carni. Però questi allevamenti così massivi, cioè parliamo di miliardi, noi siamo in 7 miliardi, nel mondo ci sono 20 miliardi di bovini, ci sono circa 50 miliardi di polli, ecco, queste sono le cifre, no? Cifre pazzesche che sono state raggiunte per poter, sicuramente con l'intento di poter dare da mangiare a tutti, però questi tipi di allevamenti sono un problema globale. Creano un riscaldamento globale, sia perché vengono utilizzati antibiotici e veleni vari nell'allevamento, poi ci sono problemi di inquinamento dell'aria, della terra e dell'acqua dovuti a questi allevamenti. Ci sono la quantità di acqua che serve per produrre carne di bovino è fino a 40 volte superiore a quella che serve per produrre patate. E ci sono paesi come la Cina e il Brasile dove centinaia di milioni di persone vogliono cambiare le modalità alimentari e quindi passare dal mangiare patate a mangiare carne. Perché queste popolazioni dovrebbero smettere di mangiare bistecche, hamburger e salsicce? Per il bene di chi? E qui questo è un tema molto, molto noto e allora io vi racconto questo episodio che mi è capitato. personalmente io mangio vegetariano, sono vegetariano, e i miei figli non lo sono, e diciamo occasionalmente mi tocca portarli a mangiare l'hamburger, non nelle catene, diciamo quelle più che ci stanno più antipatiche, però pur sempre insomma mi tocca portarli in questi posti. Una delle ultime volte pensavo di essere costretto a mangiare la solita carne orribile fatta di soia piuttosto che di seitan, piuttosto che di altre verdure, e trovo nel menù invece una grande varietà di